morte appena nata, direi che è partorita, una botta sopra il culo a capir la vita. Luci di città si accendono qua e là, ed io ci sono dentro fino al collo.